L'uomo giusto fa le cose giuste, l'uomo vero fa le cose vere. In riva il fiume, con radici sane e fonde, così è l'uomo che cammina sulla via del mio Signore. Non c'è ragione di ingannare, di sfruttare, di rubare. Bagna sempre il tuo padre con le lacrime e il sudore. Cose stolte, l'uomo falso fa le cose false, l'uomo freddo fa le cose fredde, l'uomo furbo fa le cose furbe. È come ceppo nella steppa, non dà fiori, non dà frutti, così è l'uomo che cammina sulla via degli impostori. L'iniquità starà lontano da te. Non